È uscito il nuovo singolo di Cisco, Baci e Abbracci, che vede la featuring di Simone Cristicchi. Non ne parliamo con lui, che è al telefono con noi. Ciao Cisco. Ciao, un saluto ai vostri radioascoltatori. Allora, esce questo nuovo singolo che poi anticiperà un album di cui parleremo più avanti, perché ha anche delle particolarità, però insomma, Baci e Abbracci è un po' quello che non possiamo fare ormai da più di un anno a questa parte. Esatto, è proprio così. Baci e Abbracci non è altro che la speranza, diciamo così, di un futuro che arrivi il più presto, di tornare alla normalità, e tornare alle nostre vite, al quotidiano di sempre, e farlo nella maniera più bella, no? Riabbracciandoci, baciandoci e festeggiare magari con dei concerti, con la musica, con il semplice divertimento che a volte diamo per scontato, ma che abbiamo capito che non dobbiamo più dare per scontato. Quindi la speranza del brano è quella di tornare al più presto a fare le vite monotone e, se vogliamo così, anche un po' fatue che facevamo prima di tutto questo casino. Certo, però per dire questo, nel brano tu non parli del presente, ma fai un parallelismo con il periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Sì, ovviamente in maniera esagerata, non penso affatto che quello che abbiamo vissuto noi sia paragonabile a quello che hanno vissuto i nostri nonni e genitori con la Seconda Guerra Mondiale, però mi immagino che possa essere simile la festa che faremo quando tutto sarà finito. Cioè, mi immagino i nostri nonni, i nostri genitori che correvano per le piazze, per le strade, anche tra le macerie, magari festeggiando, ballando al suono di fisarmoniche e violini. Ecco, io mi immagino che quando la pandemia sarà passata, attraverso anche delle altre tipi di macerie, magari troveremo il modo di festeggiare e, come dicevo prima, riabbracciarci e baciarci tutti insieme. Quindi mi piaceva molto questo parallelismo tra le due cose. Come dicevo prima, nel singolo c'è la collaborazione con Simone Cristicchi. Com'è nata? Ma è nata in maniera molto naturale, nel senso che avevo voglia di condividere il brano, perché essendo un brano che parla fondamentalmente di stare insieme, di collettività e di condivisione, ho detto bisogna cantarlo insieme a qualcun altro. Ho chiamato un amico a cui ho pensato, perché mi sembrava che il brano potesse stare bene addosso anche al suo mondo e al suo modo di fare, e così gli ho mandato il brano, lui ha accettato subito e, ovviamente, a distanza, purtroppo senza incontrarci, abbiamo collaborato e condiviso anche il canto di questa canzone. Certo, ecco, una condivisione a distanza, qui ci siamo purtroppo anche un po' abituati, no? In questo periodo, tu questo periodo lo hai passato rinchiuso in una soffitta, come è stato? È un po' faticoso, devo dire che ormai questa soffitta è un po' tra le mie prigioni e la mia isola di salvataggio, davvero un posto dove salvarmi, perché, come molti di voi sanno, una famiglia numerosa fatta di 5 figli, e quindi quando ho bisogno di, diciamo così, di pensare anche alle mie cose, di stare un attimo solo, mi rifugio nella mia soffitta dove ho i miei dischi, tutto in qualche modo la mia storia, e in questa soffitta per questo anno ormai passa, ho comunicato con l'esterno attraverso i social, ed è il posto dove stanno prendendo forma tutte le nuove canzoni del nuovo album che per l'appunto si chiamerà Canzoni dalla Soffitta. Dalla soffitta sono nate queste canzoni, però per la nascita dell'album tu hai scelto, come dire, un modo di produrlo particolare, perché ti sei rivolto ai tuoi fan, alle tue fan, attraverso un crowdfunding. Sì, è ormai un'abitudine che hanno in tanti, io è già la terza volta che lo faccio, e devo dire che è bellissimo condividere la nascita delle nuove canzoni e del lavoro stesso che sta prendendo forma con le persone che fondamentalmente ti sovvenzionano il lavoro, e non solo, ma partecipano insieme a te alla nascita del nuovo disco. Quindi è partita da 2 giorni questa campagna, che è partita alla grandissima, ottenendo già subito ottimi risultati in questi 2 giorni. La campagna si può finanziare sulla piattaforma Produzioni dal Basso, e devo dire che è un modo di condividere il proprio lavoro dal momento in cui, diciamo così, sta prendendo forma, e tenere informate le persone che ti seguono su quello che sta avvenendo in studio o anche semplicemente sul piano creativo dell'album. Come ogni crowdfunding sono previsti dei premi, e in realtà, sì, appunto, l'album è un doppio album. sì, perché l'album sarà ovviamente l'album nuovo con le canzoni della Soffitta inedite, ma oltre a quelle abbiamo deciso di fare una raccolta di una decina, 10-12 canzoni dei famosi live dalla Soffitta, quelli che durante il primo lockdown hanno fatto conoscere questo posto alla gente che mi segue sui social. Io ogni giorno mi collegavo dalla Soffitta suonando una canzone, non sempre mia, non sempre della mia carriera, a volte erano delle cover. Sono state molto apprezzate e molta gente mi ha chiesto: dai, facci un disco, ho detto bene, ci faccio un bel disco live per i sostenitori della campagna di crowdfunding, e quindi andremo a fare un doppio disco, uno col disco in studio e uno col disco dal vivo. Poi su per la piattaforma, appunto, Produzioni dal Basso, è possibile vedere anche quali sono le varie opzioni per i vari premi. Tu dicevi è partita molto bene, questo forse, come dire, testimonia la grande voglia che c'è di musica, no? Sì, anche sì, cioè, secondo me c'è tanta voglia. La reazione più bella che ho visto, soprattutto con l'uscita del nuovo singolo, è il commento più frequente che leggo sui social: è non vediamo l'ora di ballarlo sotto al palco e di cantarlo sotto al palco, perché è proprio la voglia che abbiamo tutti noi di ritornare a quella normalità di cui parlavo prima, che è una normalità fatta anche di piccole cose che a volte ci annoiavano e che ci sembravano superflue, ma di cui abbiamo capito che ne abbiamo veramente tanto bisogno per la vita quotidiana. Il settore della musica, più in generale dello spettacolo, della cultura, è stato probabilmente quello più colpito da questa situazione. Ci sono state anche diverse forme di mobilitazione, di protesta. Ti chiedo se li hai seguite, se ne hai preso parte e cosa ne pensi. Sì, è una cosa che seguo periodicamente, perché ovviamente ne facciamo tutti parte. A me sembra un po' che il mondo dello spettacolo, della musica, ma dello spettacolo in generale, sia un po' cascato nel dimenticatoio, no? Rispetto a tutte le, diciamo così, ai provvedimenti che i vari governi hanno preso in questo periodo. Invece dobbiamo capire che anche il mondo dello spettacolo è fatto di lavoratori e di famiglie che lavorano e che vivono con i soldi di questi lavoratori. Quindi considerare il mondo dello spettacolo qualcosa di più, credo che sia proprio sempre più sbagliato. Che forse, se ci devo trovare una cosa che tra virgolette positiva di questo periodo, è che forse questo terribile periodo avrà aperto gli occhi a qualcuno sul mondo dello spettacolo, che alla fine non è solo divertimento e luci che brillano, ma è anche fatta di gente che suda, che lavora, che porta a casa la pagnotta. Le operazioni io ne ho seguite, ho partecipato anche alla famosa serata dell'ultimo concerto, dove si è creato un grande evento che non c'è stato, con più di 130 locali di tutta Italia che coinvolgevano vari artisti. Io sono stato coinvolto dai ragazzi dei Calinca di Carpi, e sul palco del Calinca non è avvenuto quello che tutti si aspettavano, cioè un mio concerto. È stata una cosa molto forte, secondo me, che è stata una sorta di pugno nello stomaco, ma che ha avuto anche un bellissimo riscontro di solidarietà da parte del pubblico. È stata in un certo senso una performance artistica per parlare di un problema molto concreto, insomma, anche esatto. L'assenza di musica è stata arte. Sì, proprio così. Allora, Cisco, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per il nuovo album, e ovviamente adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo, Baci e Abbracci. Grazie e un saluto a tutti voi.